tutti uguali, mangiamo tutte le stesse cose, vestiamo tutti nello stesso modo, avere una diversità qual è quella dell'essere sardi è una cosa bella perché è semplicemente una ricchezza, purché questa poi naturalmente sia condivisa con gli altri. Lei dimostra una certa voracità, se mi passa il termine, per la vita e ha anche detto qualche volta: mi piace l'idea di invadere gli spazi, inteso ad esempio come organizzare concerti sui monti, sulle Dolomiti, in posti abbastanza anche difficili da raggiungere. Questa è un po' una sfida per certi versi, una sfida personale, perché il capovolgere il concetto fruitivo della musica, dunque non il teatro tradizionale, quindi non il teatro in cui c'è un pubblico seduto in sala, magari come dire una poltrona anche estremamente comoda, perché no, certo. Io credo che il successo di un concerto non sia solamente nella capacità dell'artista, ma si decreta il successo di un concerto da una serie di cose che sono naturalmente il pubblico, che è fondamentale, ma anche il luogo stesso dove il concerto poi viene accolto, perché il luogo comunque suona con la musica, e portare dei concerti anche nei luoghi più naturali penso che sia anche un segnale bello, non solo dal punto di vista estetico, ma anche proprio per far riflettere la gente sulle tematiche ambientali. A proposito di posizioni precarie, la sua abitudine di suonare seduto con il corpo un po' ripiegato su se stesso e tante volte anche a piedi nudi, cos'è, una forma di timidezza? Guardi, mi sa di sì, ha centrato in pieno, credo che sia da una parte una forma di timidezza, perché comunque io sono una persona timida, che ha avuto però la fortuna, come dire, di potersi esprimere con un mezzo diretto, che non sono necessariamente le parole, ma sono poi i suoni, quindi diciamo la barriera della timidezza viene in qualche modo spazzata via da questa necessità impellente poi di comunicare, di farlo attraverso il suono, che diventa, come dire, vitale, che diventa un po' anche l'estensione dell'anima da una parte. Dall'altra c'è anche un'altra motivazione, probabilmente, che la tromba è uno strumento in cui il corpo è fondamentale, cioè il corpo stesso che suona, e quindi è fondamentale trovare, come dire, un equilibrio, un rapporto tra l'interno e l'esterno. Allora io lo trovo, devo dire, così, per me il modo migliore per essere in sintonia con me stesso e quindi poi per riuscire poi a produrre una musica che in qualche modo mi rappresenta. Non c'è niente di teatrale, evidentemente, non sono delle posizioni che sono state studiate. Il modo più diretto, più naturale per me è essere sul palcoscenico con una posizione che mi permette di ritrovare quel rapporto intimo tra me stesso e il suono che poi produco con gli strumenti. E per esempio questa nudità dei suoi piedi, diciamo, rispetto alla nudità del musicista anche di fronte alla sua creazione, al suo pubblico, le suscita qualcosa di particolare? Non so. Non amo, per esempio, tenere delle cose in tasca durante i concerti, perché proprio questa idea dello spogliarmi quasi completamente da tutto mi sembra il miglior modo per essere realmente libero. Siccome il jazz è la musica della libertà, forse più di altre, quando io ho scelto questa musica, l'ho amata, poi ho scoperto che dietro questa musica c'erano delle motivazioni forti, c'erano le ragioni dei musicisti americani in quegli anni, la segregazione razziale, le problematiche di una civiltà metropolitana come quella americana. Mi sono appassionato al jazz proprio perché all'inizio l'ho amata come espressione, diciamo, di linguaggio, ma poi perché dietro il jazz ho scoperto che c'erano delle storie bellissime e che erano poi le storie di quelle persone che cercavano attraverso la musica la libertà. E le motivazioni per fare jazz probabilmente sono diventate altre, ma credo che la motivazione interiore, quella più forte, resti, è quella di rappresentarsi per quello che realmente si è in modo completamente libero. La seconda edizione di Italia in Controluce, vi ricordo, radio24.it, dove trovate il nostro blog e dove potete riascoltare tutte le puntate di questo programma. Poi Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Ringrazio le moltissime persone che ci continuano ad inviare idee e proposte, che sono sempre molto stimolanti, e naturalmente continuate così utilizzando alcuni dei nostri strumenti tecnologici. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.